get off. Bane love tu ke me ano. Hari maksa man tu chika mesa. Under kirchi mitsi tu piretta. Bane bechura me avri bechua. Kade si go prema ti serda. Bala kirchi mi murchenta vita. Shavendar ava ci bonunda opa ava jana so metero presu te me dispero avraro mia mangelo o camino la chiedo. Tam bastane solo di rom. Mi ha peccato ma tante di coperto. Se si tira il remengo deo. Dana che lo tu mari voia. O bardo ste che c'ha la dosa. Tam bastane. Gana pare su mekero barelo ve tu ke me ano arriva sama tu chica mesa andel kirchi mi ti tu diresa bare bechora me avri bechlan kade si go prema bisterda opa palagir chimi murchenta vida lesha vendaraba ci bonunda. I'm a